Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Dico sempre che la scorta non è un contenitore vuoto, ma che è fatta da persone con un compito straordinario: proteggere la vita di un altro anteponendola alla loro. Rita Borsellino. Salve a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Oggi siamo qui in studio, io che sono Francesca e io sono Giulia. Bene, questa puntata l'abbiamo strutturata in un modo prettamente commemorativo, perché vogliamo ricordare una parte dell'antimafia che spesso viene dimenticata e che comunque passa spesso in secondo piano, che è quella degli uomini della scorta. Uomini che comunque agiscono e votano la loro professione al servizio dello Stato e di uomini dello Stato che rischiano ogni giorno per lo Stato e in quanto tali però vengono poi assimilati in realtà a un gruppo di persone, non quanto piuttosto come singoli, come individui, e le loro vite vengono generalmente dimenticate, cosa che invece succede più raramente per personaggi più illustri, come possiamo immaginare i magistrati, i giudici. Sì, infatti una cosa che dice sempre Rita Borsellino quando parla di suo fratello è che lei ama ricordare prima tutti gli uomini della scorta che sono morti e anche le donne in quel caso, quindi dire tutti i loro nomi e poi dire e il loro giudice, cioè invertire questo meccanismo che si è creato in questi anni. E poi quando appunto parla nelle scuole eccetera, la Borsellino, ho letto che appunto ricorda gli uomini e le donne della scorta chiamandoli i ragazzi della scorta, perché appunto con Borsellino si era poi instaurato un rapporto per cui appunto Borsellino, quando ne parlava con la sorella in casa in generale, si riferiva appunto ai miei ragazzi, quindi un rapporto comunque molto più stretto di quello che invece poi ci fa passare effettivamente la stampa di primo acchito, quando appunto per anni e anni degli uomini della scorta di Borsellino e Falcone non se ne è mai parlato, non se ne è mai nemmeno espressi i nomi. Questo ad oggi sta cambiando, nel senso che rispetto ai nomi della scorta di Falcone e Borsellino effettivamente sono usciti degli studi, sono usciti dei testi, anche dei film anche hanno dei fatto film, grazie sì. Alla moglie di uno dei ragazzi di Falcone, quindi di loro si comincia a parlare. Mentre di altri uomini delle scorte non se ne parla ancora, e ancora i loro nomi e le loro storie non sono conosciute. In questa puntata vogliamo raccontarvele brevemente, naturalmente, e ricordare non solo quindi gli uomini della scorta che sono effettivamente morti, ma anche coloro che sono quelli che restano, i sopravvissuti, e coloro i quali in realtà forse è lasciato il compito ancora più grande, perché hanno visto morire i loro colleghi, spesso davanti agli occhi, o per il caso fortuito per cui quel giorno avevano cambiato il turno con qualcun altro, e quindi parleremo anche di questo aspetto. Adesso però ascoltiamo un po' di musica. De Gregori, La linea della vita. È tutta una vita che passo da qua, e ancora rischio di perdermi. Magari è questione di troppa sensibilità, o sono soltanto motivi tecnici. E tu dici una bussola, dovevi almeno portarla con te, una bussola. Potevi almeno spiegarmelo come si usa una bussola, scusa. Ci sono amori che non si ricordano, e baci che non si dimenticano. Persone che passano e non si salutano e sputano, e cani bianchi che a volte ritornano. E tu dici la vita, dovevi almeno capire perché. La vita, il tempo che cambia col vento che voce cattiva che dice guardami, dice perché non parli, dice sbrigati prima che sia troppo tardi, guardami, perché non parli, fermati prima che sia troppo tardi. Adesso fai finta di non riconoscermi, ma guarda la gente che salti mortali che fa, e quanti nani sui trampolini, e tu dici perdonami, ma non credevo che fossi tu, perdonami, va bene perdonami. Però perdonami, cosa è tu dici la vita? La vita, questa scatola vuota, quest'anima nuda, questa retta finita, quest'acqua che corre veloce in salita, quest'anima forte e ferita che dice guardami. Dice perché non parli, dice fermati prima che sia troppo tardi, guardami, perché non parli, e sbrigati prima che sia troppo tardi, perché non parli, dice fermati prima che sia troppo tardi, guardami. Aveva un ideale di giustizia e di legalità. Sperava di dare un volto nuovo e più efficiente alla polizia. Credeva di poter combattere malavita e mafia. Credeva di poter migliorare questa società corrotta e degradata. Per un anno e mezzo a Palermo aveva lavorato con Cassarai Montana. Le difficoltà, la solitudine, la precarietà della squadra mobile, invece di scoraggiarlo, avevano aumentato il suo attaccamento al lavoro, ai superiori, amici, ai colleghi, molti dei quali erano diventati per lui come fratelli. Queste sono le parole di Saverio Antiochia, che ricorda suo figlio, Roberto Antiochia. Faceva parte della squadra mobile di Palermo e, dopo aver lavorato appunto nella squadra mobile di Palermo, fu trasferito a Roma. Però nel 1985 fu ucciso Beppe Montana, uno dei suoi vecchi colleghi. Quindi lui andò al funerale e scoprì che Ninni Cassarà, il suo ex superiore, non aveva la scorta ed era molto preoccupato per questo, proprio perché è stato il periodo in cui hanno cominciato a uccidere tutti gli uomini del pool antimafia. Quindi decise di prendere le ferie e di fare da scorta a Ninni Cassarà, gratuitamente, cioè come amico. E proprio per questo motivo fu ammazzato 6 giorni dopo insieme a Ninni. Perché noi oggi ci ricordiamo di Roberto Antiochia? Grazie a sua madre, che dopo la sua morte scrisse una lettera a Luigi Scalfaro, una lettera aperta che andò sul giornale La Repubblica. E poi si cominciò a battere tantissimo nel mondo dell'antimafia, tanto che grazie a lei, che è nata libera, lei ha spinto tantissimo perché nascesse questa associazione antimafia e quindi l'ha fondata insieme a Don Luigi Ciotti. Altri due uomini da ricordare sono quelli della scorta del giudice Rocco Chinnici, che muoiono insieme a Chinnici il 29 luglio del 1983. Questi sono Trapassi, Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta. E di questi, come di tanti altri uomini delle scorte, non si ritrovano cercandole molte informazioni della vita personale, della loro vita anche appunto da scorta di Chinnici. È però essenziale ricordarli proprio perché, come tanti altri, hanno dato la loro vita allo Stato seguendo fino all'ultimo la professionalità della quale si erano fregiati. C'è una donna che ha ricordato questi uomini di scorta in un libro, Uomini di scorta della Sciortino. Oggi vogliamo ricordare anche Domenico Russo, l'uomo di scorta di Carlo Alberto Dalla Chiesa. E poi appunto tutti gli uomini della scorta di Falcone e di Borsellino, quindi Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonino Montinaro, che facevano parte della scorta di Giovanni Falcone, poi Claudio Traina, Eddie Walter Max Cosina, Emanuela Loi, che è stata la prima donna facente parte di una scorta, Vincenzo Limuni e Agostino Catalano, che erano della scorta di Paolo Borsellino. E su questi nomi vi lasciamo con una canzone dei Noir Désir, À l'inverse, à l'endroit. On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. Saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers. Un autre cycle, on peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Latéralement, le prince entame des protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrêtent sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. E Natale Mondo, io me lo ricordo per prima cosa vicino alla bara di mio figlio, quel giorno terribile, che piangeva pallido come un morto e diceva: dovevo morire anch'io con voi, dovevo morire anch'io con voi, e singhiozzava con una sincerità della quale non si poteva avere dubbi. Il dolore di Natale, finché ha vissuto, è stato quello che potessero credere che lui avesse potuto tradire Ninni Cassarà ed essere la causa della morte sua e quella di Roberto. Mi diceva tante volte: io sono condannato, io sono un uomo morto, sono sicuro che un giorno o l'altro arriveranno a me. Non sono morto quel giorno, sono morto moralmente prima, mi hanno ucciso moralmente, poi mi faranno fuori anche materialmente come uomo, e così è stato fatto. Queste erano le parole della madre di Antiochia in un'intervista a Mauro Rostagno. In questa, oltre a ricordare il figlio e parlare della sua esperienza, la madre di Antiochia ricorda anche un'altra figura che risulta tra i sopravvissuti, ma che in realtà poi è stato ucciso a sua volta, sempre dalla mafia, ed era un collega del figlio, ovvero Natale Mondo. Natale Mondo ha una vicissitudine veramente terribile, nel senso che non solo appunto assiste alla morte di un collega che era appunto Roberto Antiochia e di Ninni Cassarà, di cui comunque era amico e di cui era parte della scorta, ma successivamente a questa verrà addirittura accusato da un pentito, e quindi anche subirà poi delle vicissitudini giudiziarie, di aver collaborato con la mafia ed essere corrotto, colluso con questa, e di aver addirittura facilitato l'uccisione appunto di Ninni Cassarà. Possiamo solo immaginare di quante queste accuse potessero pesare su un uomo che si rivelò poi completamente innocente, anche ad opera, bisogna ricordarlo, sia dei parenti di Antiochia che dei colleghi, della moglie di Antiochia, quindi di testimonianze di persone che erano state colpite dalla tragedia. Natale Mondo verrà poi invece ucciso, sempre per mano mafiosa, nel 1988 a Palermo, all'ingresso del negozio della moglie. Parlando di sopravvissuti, c'è un'altra storia molto particolare, che è quella di Giuseppe Costanza. Lui non è un semplice sopravvissuto, lui è sopravvissuto alla strage di Capaci ed era nella stessa macchina di Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo. È sopravvissuto perché la moglie di Giovanni Falcone voleva stare nel posto davanti, e quindi lui si è seduto dietro, ed è stato l'unico motivo per cui è riuscito a salvarsi. La sua storia è stata dimenticata, o possiamo anche dire che il suo sopravvivere è stato visto anche quasi come una colpa, perché nessuno più ha parlato di lui, e solamente in un'intervista, di cui adesso vi faremo ascoltare un estratto, si è ascoltata la sua testimonianza. Il 23 maggio del 92 mi trovavo a bordo della macchina del dottor Falcone, condotta da lui, in quanto io ero il conducente di quella macchina. Ma siccome la moglie si è seduta davanti perché preferiva così, il marito, quindi il dottor Giovanni Falcone, si poneva alla guida e io mi sedevo dietro nei sedili posteriori. E ci avviamo verso Palermo quella tragica mattina, dove percorrendo quella strada si parlava del più e del meno con molta serenità. Non c'era nessun allarme che potesse far pensare un attentato, perché ormai vivendo a Roma non aveva più questa preoccupazione. Lui invece, istintivamente, non so, era da pensiero, ha tolto le chiavi, spegnendo la macchina praticamente. Io mi chiamai dicendogli: cosa fa così, ci andiamo a ammazzare? E lui annuì, mi chiese scusa, dice: scusi, ma mi poggia le mie chiavi e inserisce le sue. Quello è stato l'attimo che io ricordo con precisione, perché poi non ricordo più nulla. Poi c'è stato un risveglio in ospedale, quindi io ritengo che sia stato in quel momento che è avvenuta l'esplosione. C'è un fatto strano in Italia. In Italia si vive di morti, purtroppo, mi dispiace dirlo, giusto ricordarli, per carità, hanno dato la vita per servire lo Stato, ma chi rimane vivo che colpa ne ha? Cioè, mi hanno fatto pesare questa mia sopravvivenza, perché io ero escluso da tutto e sono escluso da tutti, attenzione, perché tutt'oggi io a distanza di 20 anni non ho mai avuto questo ricordo, farmi la presentazione di chi si è immolata eroe, non so per quale titolo e a quale fine, invece di stringersi accanto i sopravvissuti che hanno vissuto quel tragico, e non soltanto quel tragico momento, perché io lo seguivo dall'84 al 92, e invece si tenta di emarginare. Altri nomi di sopravvissuti sono quelli della scorta di Falcone, che precedevano nella macchina davanti il giudice Falcone e Francesca Morvillo. Questi sono Capuzzo, Corbo e Cervello. Cervello fra questi si salva per una, in realtà proprio un colpo di fortuna, perché quel giorno il suo collega Antonio Montinaro gli aveva chiesto di cambiare il turno, quindi Cervello, non cambiando turno con il collega, si salvò la vita, ma in questo modo Antonio Montinaro rimase ucciso. Ricordando invece la strage di Via D'Amelio, dobbiamo ricordare che c'è un sopravvissuto anche in questa strage, che è Antonio Vullo. Lui è sopravvissuto perché nel momento in cui scoppiò l'autobomba era andato a parcheggiare la macchina dove c'era il giudice e dove c'erano anche gli altri agenti di scorta. In queste storie fa impressione come effettivamente torni sempre l'elemento del caso, dell'eventualità, storie che si appendono proprio anche solo al fatto, si appigliano solo al fatto che una persona cambi un turno con un'altra e per questo rimanga uccisa. Fa abbastanza impressione perché la vita di queste persone è votata a proteggere degli uomini e quindi la loro stessa professione è quella di mettersi costantemente in pericolo. Quello che ci si chiede poi effettivamente è se lo Stato e noi stessi come popolazione civile siamo poi effettivamente capaci di dare quell'appoggio, che è l'unica cosa che può mandare avanti queste persone, come l'unica motivazione che può far andare avanti queste persone a fare questo lavoro così essenziale in un modo, nel modo più consono possibile, anche perché questa professione effettivamente, se non viene fatta nel migliore dei modi, se non viene fatta con il più grande, il massimo rigore, non ha senso. Queste persone si mettono effettivamente sempre in pericolo, ma è il loro mestiere. E secondo me bisogna proprio partire dal ricordare queste persone, anche soprattutto i sopravvissuti, perché loro possono dare una grande testimonianza. E così come il diritto al nome, ad essere ricordati, ce l'hanno tutte le persone che sono morte, ce l'hanno anche le persone che appunto sono ancora in vita e che possono ancora darci qualcosa. E adesso vi lasciamo con una canzone dei Baustelle, Andarsene così, casualmente, proprio alla fine. Ciao e ci vediamo alle prossime puntate. Però dobbiamo ricordare che tra qualche settimana partirà una nostra iniziativa del Presidio Universitario di Libera, appunto, che è il caffè letterario, il caffè che si chiama corretto. Caffè corretto. Buona Pasqua e ci vediamo il 12. Ciao. Amare veramente, riuscire a farcela, e non pentirsi mai. Non è impossibile. Paura. lucertole nel sole. Amare come Dio. Usare